Un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Buongiorno, grazie per avermi dato la patrimoniale. E io prescrivo i mutandoni. Ecco qua, l'uomo allora, deve lasciare libero il gioiello, insomma, perché per prendere aria. Respizzi lo vedremo anche al Salone del Risparmio. Ce lo portiamo? Dottor Respizzi, sì. Facciamo un invito. Ma piace spendere, mica risparmiare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che vuoi, Ricky? Perché me lo chiedi, papà? Oh, Pozzi ti ha detto buona fortuna. A cosa ti serve questa buona fortuna? Ecco, vedi. Vuoi un po' di miele? Oh, no, grazie. Vedi, ho un appuntamento stasera. Quanto ti serve? Dunque, $6. Quanto hai detto? Puoi considerarlo un anticipo sul mio mensile. Ah, benissimo. Dunque, vediamo un po'. Con questo penso che non devo darti il mensile per 2 o 3 anni. Oh. Grazie, papà. Vengo a casa per cena, mamma. D'accordo. Chi di noi non ha mai visto un episodio di Happy Days? Ah, certo, ci ricordiamo tutti i Fonzi, però la famiglia Cunningham sta lì. E quindi, se hai capito bene... o non hai capito, non lo so, oggi ti porto in America. Va bene, allora proprio ieri noi abbiamo parlato del cammino, ma mi sembra che così abbiamo fatto un bel balzo. Insomma, in America a piedi non ci arriviamo, ma almeno con la fantasia. Esatto, abbiamo comunque superato la quota 10.000, che è il famoso numero fatidico dei passi necessari da fare in una giornata, no? Scherzi a parte, dalla famiglia americana di Happy Days che abbiamo sentito a un'altra famiglia americana, i Cunning. Da fuori una bella famiglia, tranquilla, benestante, genitori di 3 figlie di 13, 15 e 18 anni e le loro figlie frequentano ottime scuole private. Cosa c'è che non va? A un certo punto qualcosa cambia, la più grande, Rachel, compiuti 18 anni, va via di casa e i genitori smettono di pagarle la retta della scuola e lei li denuncia dicendo che sono egoisti perché hanno molti soldi, li spendono in cose inutili e così li trascina in tribunale. Anche in Italia capitano cose simili, niente tribunale, ma qualche tempo fa abbiamo letto per esempio di un 16enne di Trento accusato addirittura di stalking nei confronti dei genitori per la richiesta della paghetta. Beh, Deborah, fa il paio con il caso del 34enne, diversamente adolescente, insomma, che è stato denunciato dal padre, stufo di subire pressioni insistenti per la paghetta, che era una pagona, €1.000 al mese. Ma fino a quando i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio? La maggiore età è lo spartiacque oppure è la non autosufficienza economica a dettare le regole? Stamattina ne parliamo con un nostro esperto, Carmelo Padalino, esperto di diritto di famiglia del foro di Catania, se non mi ricordo male. Avvocato, buongiorno e bentornato a Cuore Denari. Buongiorno. Eccoci qua. Il foro di Catania. Di Catania, anche esperto su questi temi per il Sole 24 Ore. Allora, qual è appunto il tema del quale stiamo parlando questa mattina? Il mantenimento del figlio. Fino a quando i genitori sono tenuti? Ma guardi, non c'è un limite legato all'età. Anzi, l'età è del tutto neutro come dato per la Cassazione e per la giurisprudenza. I genitori devono mantenere i figli fino a quando non raggiungono l'indipendenza economica o non sono in grado di raggiungerla per loro colpevole inerzia. E questo è un punto appunto molto chiaro. Poi magari, avvocato, le chiederemo anche un commento sul caso di Rachel. Naturalmente noi vogliamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori. Avete figli a carico più o meno con etane di Rachel? Li mantenete negli studi, vivono con voi o sono fuori casa? I figli, lo sappiamo, sono pezze core, ma la loro gestione è impegnativa sia dal punto di vista del cuore e quindi delle relazioni che dei denari. Magari per il quieto vivere avete dovuto accettare dei compromessi alcuni più pesanti di altri. Che cosa vi pesa di questa situazione e quali sono le rivendicazioni che vi fanno i vostri figli? 800 24 00 24, ma naturalmente potete anche seguirci su Facebook e su Twitter. E proprio da Facebook, Deborah, sono arrivati alcuni commenti. Francesca ci scrive: i miei genitori hanno saputo farmi sviluppare gli strumenti per affrontare la vita in autonomia. Mi hanno insegnato a non aver paura della diversità e di essere diversa e a non aver paura di scegliere usando la mia testa. Bruno invece: ho avuto dei genitori che mi hanno dato quello che potevano, ho avuto lo stesso comportamento con i miei due figli, ma il risultato non è esattamente quello che mi attendevo. Chissà se avranno pensato lo stesso i genitori di Rachel. Avvocato Padalino, ritornando a questo caso americano, questa diciottenne chiedeva $650 al mese per il liceo. La vicenda è chiaramente più complessa, articolata, molti l'avranno letta sui giornali, ma che cosa ne pensa di quello che è successo? E chiaramente noi abbiamo un ordinamento diverso, ma quali sono le voci del mantenimento obbligatorio, se appunto ci riferiamo all'Italia? Quindi per lei sono due domande, sì. Ma allora, intanto io sto restando alla parte di Rachel, perché sicuramente l'età, 18 anni, non le consente di mantenersi agli studi. I genitori hanno una notevolissima capacità economica, perché risulta che facevano dei viaggi costosi, perché facevano frequentare alle figlie delle scuole private. Un tenore di vita, insomma, significativo. Molto elevato. E soprattutto io apprezzerei di Rachel la capacità di provare a rendersi autonoma sotto il profilo proprio delle scelte di vita, anche con tutti i limiti che questo può determinare, no? Sbagli. È sicuramente un aspetto che non ho trovato responsabile da parte dei genitori, è quello di dire: se non torni non paghiamo, quasi che il mantenimento fosse legato a una sorta di necessaria frequentazione dei genitori, no? Di una sorta di ossequio a quello che è il dovere del figlio anche in età adulta. Io ho letto, insomma, che Rachel spesso veniva utilizzata come babysitter per le sorelle, quindi... Va bene, ma scusi, questo avvocato, questo capita in tutte le famiglie, le sorelle grandi guardano un po' le sorelle piccole. Io ne ho una minore di 7 anni, sai quante volte mi è toccato? E quindi qual è la questione allora che lei contesta, solleva, avvocato? No, contesto la responsabilità genitoriale dei signori Canning, perché a mio avviso... possono contestare la scelta di andare a vivere da una parte piuttosto che da un'altra, ma non di non consentire di coltivare gli studi perché andate via di casa e magari loro non possono più avvantaggiarsi, no? Quindi lei dicono... Allora, l'avvocato Padalino si schiera dalla parte di Rachel, esatto. E voi 800 24 00 24. Intanto abbiamo Marco che ci chiama da Parma. Sentiamo che ci dice se ha figli a carico o se è un figlio ancora a carico. Marco, buongiorno. Salve, buongiorno, sono Marco. Sì, buongiorno. Marco, allora niente, complimenti per la trasmissione. Ho provato a contattarvi perché volevo esporre la mia situazione, sì. Che è un po' la situazione di tanti padri separati che devono mantenere i propri figli. Dice con un'aria molto affaticata, Marco. La situazione è questa che ho io. In pratica ho due figli di cui devo corrispondere l'assegno di mantenimento, come giusto che sia. La cosa che in pratica disturba parecchio il fatto che per lo Stato io ho due figli, sono maggiorenni, sì. Attualmente hanno finito gli studi, una figlia disoccupata pur essere laureata e fa lavoretti 2 mesi all'anno, 2 o 3 mesi all'anno, lavoretti che comunque mi consentono di poter avere in detrazione. Gli assegni familiari scadono ai 18 anni, non posso averli in detrazione. Però per lo Stato, per l'INPS soprattutto, se una persona supera un reddito minimo di 518 euro, non gli può corrispondere per l'INPS, eventualmente, se fosse un decesso, la pensione di reversibilità. In compenso però mi obbligano, per quanto riguarda invece il giudice, il reddito non è sufficiente, quindi io sono obbligato a pagargli il mantenimento. L'altro figlio è un lavoratore part-time con le forme di apprendistato, ecco. Quindi ho un reddito di 400 euro mensile che mi obbligano a dover pagare, a integrare, non a integrare, io pago il mantenimento come se fosse un non lavoratore. Marco, allora quindi lei, ma il tema che lei contesta, e sulla sua testimonianza è molto lunga, è che lo Stato potrebbe aiutare un po' di più, quantomeno aiutandovi certo. a detrarre un po' questa spesa fissa che nel vostro bilancio c'è, che voi fate, sostenete molto volentieri, naturalmente, perché lei ce lo diceva, però comincia a diventare un po' stretta la coperta. Per lo Stato, dopo 18 anni, si supera 1.800 euro annuali di reddito, Non ti corrisponde più niente, quindi non c'è nessun tipo di aiuto. Marco, abbiamo questo governo tanto sveglio su tante cose della società civile, non solo, chissà che, visto magari. Che il tema dei papà separati e la loro difficoltà, non entri, e anche un po' di prepotenza magari, ce lo facciamo entrare nell'agenda appunto della nuova e attivissima compagine governativa. Ma di papà separati e di coppie separate parleremo, quindi le facciamo entrare oggi in trasmissione. Certo. 800 24 00 24. Sentiamo il commento dell'avvocato, passiamo a Alberto da Roma. Avvocato, magari un flash con l'avvocato Padalino su questo primo caso, di cui credo conosca un po' i termini, no? Sì, sì. Allora intanto io mi piacerebbe chiedere all'ascoltatore, ma anche agli altri genitori separati, se la famiglia non fosse entrata in crisi, avrebbero continuato a mantenere i figli oppure non avrebbero dato più nulla? Perché questo è il ragionamento che si pone e fa la Cassazione per continuare a garantire il mantenimento ai figli. Per quanto riguarda l'aspetto proprio della quantificazione, ora la Cassazione si sta orientando nel dire che anche un lavoro part-time o a progetto, un apprendistato, può consentire di ridurre il mantenimento rispetto a un figlio disoccupato o studente. E anche il contratto di formazione specialistica all'università, magari da parte dei medici, anche se a tempo determinato, può consentire di ritenere quel figlio economicamente autosufficiente. E insomma, lei dice, se questi ragazzi, se il nucleo familiare fosse rimasto intatto, Marco avrebbe corrisposto quello che era necessario ai figli, lavoratori o no, senza problemi. Il problema è che però questa famiglia si è spezzata e a Marco si sono aggiunte tante altre spese, di cui chiaramente l'avvocato Padalino sa, per cui non si può fare un ragionamento che io condivido solo ed esclusivamente dal punto di vista dei figli. Il problema è che qua si sono moltiplicate le spese a Marco, e quindi giustamente non ci sta più. Io, per quanto riguarda il coinvolgimento dello Stato nel mantenimento dei figli, dico che per i figli minori, ad esempio, i genitori non sfruttano appieno i figli familiari, perché se due genitori sono entrambi lavoratori dipendenti, ma uno guadagna meno dell'altro, gli assegni familiari li dovrebbe chiedere quello che guadagna di meno, perché l'assegno familiare aumenta d'importo e si carica una parte il mantenimento del figlio sullo Stato. Non conosciamo la situazione della controparte di Marco, della ex moglie, magari lanciamo così questo suggerimento che potrebbe anche essere preso in considerazione. Essere genitore è un compito particolarmente intenso e impegnativo, anche perché i nostri figli possono chiederci cose che nessun altro chiederebbe e in modi che nessun altro userebbe. Ci vedono da vicino come nessun altro fa e tengono davanti a noi degli specchi in cui rifletterci. Così facendo, ci offrono ripetute possibilità di vedere noi stessi sotto una luce diversa e di lavorare consapevolmente chiedendoci che cosa possiamo imparare dalle situazioni che si presentano con loro. Mila e Jon Kabat-Zinn. Figli, maneggiare con cura, Jon Kabat-Zinn ci offre uno spunto per leggere le relazioni che abbiamo, che intrecciamo con i nostri figli da un altro punto di vista e per imparare qualcosa da queste. Un esercizio che credo ci possa aiutare a rivedere il nostro ruolo di genitori, ma anche e soprattutto il nostro essere persone. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Genitori troppo permissivi, disposti a tutto per assecondare i figli, addirittura pronti a sostituirsi a loro, la situazione qui da noi sembrerebbe molto lontana da quella descritta dal caso di Rachel. Ma questo esagerato accudimento, dottor Aquilar, ha immagino, delle radici profonde. È vero che la mamma italiana è unica, diversa da tutte le altre, ma dottor Aquilar, spesso diamo tanto perché in fondo temiamo di aver mancato in qualche occasione, quasi una forma di risarcimento, di indennizzo, direbbe Deborah. È vero, e questo crea una serie di problemi poi a catena, nel senso che il mestiere di genitori è un mestiere molto difficile. Le persone in tutti gli stati devono fare un lungo corso di apprendistato per imparare ad avere la patente di guida e non si vede perché non si dovrebbe fare lo stesso sforzo per dare delle informazioni più adatte al momento attuale su come si esercita il lavoro di genitori, senza rischiare di essere servili, senza rischiare di essere autoritari, ma soprattutto senza rischiare, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, di essere trascuranti. Perché molte difficoltà di comunicazione poggiano le basi su una bassa capacità di negoziazione e di interazione nelle prime fasi della vita dei nostri figli. Dottor Aquilar, come a dire che tutti i nodi vengono al pettine. E allora noi chiediamo ai nostri ascoltatori, chiamateci, raccontateci che genitori siete. Il dottor Aquilar ha in fondo tra le righe tratteggiato già alcuni profili, ha parlato di genitori servili, ha parlato di genitori che non hanno dedicato tempo, no, ai bambini, ai figli in un'età molto importante che è quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Voi che tipo di genitori siete? Che genitori avete avuto? Perché spesso noi, dottor Aquilar, riproponiamo con i nostri figli i modelli che abbiamo vissuto da figli, e quindi che figli siete stati? Se avete dei dubbi, siamo qua per voi, ma soprattutto raccontateci anche che cosa dicono i figli di voi, che etichetta vi hanno appiccicato addosso. Dottor Aquilar, anche questo è un esercizio che ci può aiutare a vederci con altri occhi. Sicuramente, perché soprattutto quando i figli crescono dobbiamo imparare a fare una serie di negoziazioni interpersonali con i nostri figli, ascoltando il loro punto di vista. Il fatto che alcuni pensino di replicare l'educazione che hanno ricevuto trascura il fatto che nel frattempo sono passati degli anni, sì, che le motivazioni antropologiche e culturali sono cambiate. A questo proposito c'è una battuta molto carina del dizionario Webster's dell'umorismo che dice così: i genitori, una strana categoria che dapprima cerca di far camminare e parlare i propri figli e poi di farli stare seduti e zitti. È vero, è meraviglioso, è magnifica. Su questo possiamo imparare qualcosa. Hai capito. E allora 800 24 00 24, se vi ritrovate anche un po' in questa condizione di aver così permesso ai vostri figli di spiccare il volo per poi rimetterli in gabbia in qualche maniera, perché comunque fate fatica a distaccarvi, e o perché magari anche le condizioni economiche purtroppo non consentono al figlio di distaccarsi, situazioni come sapete molto attuali. Prendiamo Alberto da Roma. Eh sì, perché è un po' che ci aspetta. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Le abbiamo fatto fare una sorta di prova fedeltà, un corso di apprendistato veloce stamattina. Grazie. Allora, sono Alberto, sono separato, ho due figli e ho un affido condiviso. Una è maggiorenne e ha finito il liceo, e l'altra invece finirà quest'anno la maturità. Io volevo soltanto dire che, pur avendo chiaramente l'affido condiviso, come in tanti casi non si tratta di nessun affido condiviso, ma comunque quello che diciamo a me preoccupa più che altro, e diciamo non trovo corretto, è questo fatto che i figli dei separati si possono classificare come figli di serie A, e mentre i figli di non separati figli di serie B. Perché? E spiego meglio: mentre i papà di separati sono papà di serie B, i papà di non separati sono di serie A. Sì, dipende. Il discorso è molto semplice, è perché diciamo a fronte di un assegno di mantenimento loro possono diciamo spendere con qualsiasi modo questo assegno, e senza rendere nessun concordare nulla con il papà, e se questo assegno non è sufficiente possono pretendere anche delle spese aggiuntive. Un'integrazione anche per spese diciamo tipo un'università particolarmente costosa, ma che probabilmente non lascia stucco. Abbiamo brutalmente interrotto Alberto da Roma. Alberto, risintetizzo un po' la situazione, lascerei le schematizzazioni figli di serie A, di serie B, perché nonostante poi io la vado sua in convinzione tilt. Esatto, no, il tema è che lui dice questo assegno non è quasi mai sufficiente No, Alberto, va quasi sempre integrato. Sembra non solo una questione economica e non una condivisione di progetto, che cosa servono questi soldi. Diciamo che certo che per un giudice non è esattamente facile, no, stabilire l'entità in relazione alle necessità, perché poi si devono mettere a nudo tutte le abitudini familiari, i trascorsi, no Nicoletta? Quindi andiamo al tecnico. Avvocato Padalino, la osservazione di Alberto è del tutto pertinente. Si stacca l'assegno, ma non so, condividono poi noi progetti di vita successivi e le situazioni per le quali poi questo denaro servono. Ma guardi, io per esperienza professionale direi che i genitori devono fare mea culpa, perché quando si va a quantificare l'assegno davanti al giudice non mettono in condizione prima l'avvocato e poi il giudice di poter quantificare l'assegno. Prima di tutto perché bisogna indicare tutte le spese nell'arco dell'anno, capire quali sono le spese ordinarie e quelle veramente straordinarie. E siccome non è facile, è chiaro che l'integrazione è necessaria. È evidente che si parte sempre da una situazione a ribasso. No, non si deve partire da una situazione a ribasso. No, nel senso che è ovvio che poi nel corso del... Per quanto tu possa pianificare... È evidente che qualche cosa di extra esce, no? Non si può fare una schematizzazione così rigida, preventiva, immagino. No, ma guarda, ad esempio sulle spese scolastiche, perché l'ascoltatore accennava a questo, io posso sapere se pago come libri, come retta privata, no? Un determinato importo annuale. Se c'è la gita, poi, se c'è necessità del nuovo cappotto. Sì, però diciamo, se io in un anno, nel 2013 ho speso, faccio un esempio, no? 5.000 euro per abbigliamento e sport del figlio, l'anno successivo, dove c'è la separazione, spenderò di più, spenderò quello. Poi magari dobbiamo stabilire se a seguito, come diceva lei, delle ulteriori spese, no? Che si hanno con la separazione, si può ancora garantire quell'importo. Poi un'altra cosa che volevo dire, la scuola privata, quindi un'università costosa, no? Non è un bisogno primario. Cioè, se i genitori si mettono d'accordo, bene, se no chi sceglie di mandare il figlio a una scuola privata? Paga lui, non può pagare l'altro. Chiarissimo. Avvocato, dobbiamo interrompere perché abbiamo la pausa, ma su tutto questo torniamo naturalmente a parlarne dopo le informazioni sui mercati. 800 24 00 24, tenendo conto che le variabili economiche, come racconterà il dottor Aquila, hanno il loro peso, ma c'è anche un peso simbolico dell'uso del denaro nella gestione del potere familiare. E denari. Se un giorno i vostri genitori vivessero in case separate, con chi vi piacerebbe vivere? Con nessuno dei due. Ah, e come mai? Perché sono uno peggio dell'altro. La sentiti? Offendono pure. Cortesia, sto parlando con i bambini. Ve lo chiedo un'altra volta. Con chi preferite stare? Signor giudice, noi vorremmo divorziare da loro. È possibile? Dal film Ex, 800 24 00 24, chissà, magari dottor Aquilar, ci sono delle storie, delle relazioni tra genitori e figli in cui magari anche i figli vorrebbero separarsi dai genitori, non è solo una battuta da film. No, ma è una battuta provocatoria. Il desiderio in realtà espresso con tutta probabilità da questi ragazzi, da questi figli, è di avere dei genitori più consapevoli, come consigliava John Kabat-Zinn nel vostro inserto, che è uno dei più grandi esperti del mondo di consapevolezza. Il problema è che molto spesso gli adulti, presi dalle loro legittime preoccupazioni, si dimenticano di tenere presente com'è il punto di vista e il punto di emozione dei figli su quella situazione. E dovrebbero, come dire, accettare di farsi aiutare per una negoziazione anche nel caso in cui c'è una guerra tra i due genitori, una guerra che può essere esplicita ma molto più spesso è sotterranea e quindi ancora più pericolosa. Comunque noi, dottor Aquilar, siamo partiti dal caso americano di Rachel, ma anche noi abbiamo le nostre belle gatte da pelare, perché qualcosa è cambiato se, come dicono i dati dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti, le cause del super sono circa 30.000 le cause giudiziarie intentate dai figli contro i genitori separati per avere alimenti. È una situazione che in parte, dottor Aquilar, l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita anche delle telefonate dei nostri ascoltatori. È figlia della crisi, della difficoltà a trovare lavoro, degli affitti troppo alti, dei salari minimi, ma anche, dottor Aquilar? Anche del desiderio di avere un risarcimento economico in alcune persone che cerchi di rappresentare il risarcimento affettivo è impossibile, ma in realtà non è così. Il risarcimento affettivo è in qualche modo recuperabile, ma occorrerebbe mettersi d'impegno per cercare di costruirlo. Faremo a chiusura della trasmissione, nella seconda parte, la scuola del risparmio. Brava, l'appuntamento, quindi io vi invito a ricordarvi e tenervi, soprattutto state con noi, perché impareremo tante cose. Ma dottor Aquilar, tendenzialmente si parla anche poco di soldi con i figli, o lo si fa in una maniera che ha un po' delle accezioni, non anche, è educativa, esatto, un po' folcloristiche, ma senza. Non crede, dottor Aquilar? Si parla poco di soldi con i figli perché spesso le questioni, soprattutto quelle che stiamo cercando di discutere oggi, nascondono nel rapporto del denaro con i figli un rapporto di potere tra i due coniugi o i due ex coniugi. E quello che servirebbe fare è lasciar venire alla luce questi conflitti, cercando poi una strategia di negoziazione senza perdenti, e poi dopo di avere con i figli la confidenza di poter parlare anche con loro di questioni economiche, senza utilizzare le questioni economiche come una forma di ricatto, certo. Che invece è un'altra operazione che in alcuni casi alcuni genitori inavvertitamente fanno, o come forma di pressione sull'altro coniuge o ex coniuge. Quindi dietro le questioni di denaro, oltre che le questioni banali di denaro, banali fino a un certo punto, nel senso che se una questione economica, una possibilità economica non c'è molto da poter discutere. Il punto è che spesso si nascondono dietro questo menzogne che servono ad esercitare potere, e questo rende dal punto di vista etico la posizione dei figli assolutamente difficile, perché non sanno mai qual è la verità. Chissà quante ne vede ogni giorno l'avvocato Padalino, magari adesso glielo chiediamo. Intanto mi rivolgo di nuovo agli ascoltatori, anche se questa mattina veramente si sono messi in coda in tanti per commentare con noi le loro situazioni in tribunale o tra le mura domestiche. Quali sono le rivendicazioni che vi fanno i vostri figli? 800 24 00 24 per raccontarcelo, e a quali compromessi dovete scegliere e quali proprio non tollerate e trovate particolarmente faticosi? Ripartirei con gli amici che ci seguono da casa, con Giuseppe da Milano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Eccoci. Giuseppe, sì, buongiorno. La mia situazione, buongiorno. Io ho 62 anni, sono pensionato, poi faccio un'altra attività, sono divorziato, ho due figli, tutti e due laureati. Mia figlia ha 40 anni, 39, ha due figli, non si è mai sposata, il papà dei bambini è un disoccupato, e mia figlia mi dice: papà, sai che tu sei obbligato a mantenerci? Ma io credo proprio di no, nel senso che tutto quello che posso fare faccio, però se tu mi chiedi, mi parli di obblighi, credo che io abbia alcun Giuseppe, obbligo. Ma ne parlate, lei glielo chiede scherzando, sua figlia, oppure in realtà? No, mia figlia dice, dice che io sono obbligato. Adesso io faccio tutto quello che posso e lo faccio volentieri per i bambini, anche per te, che per lei prende 1.500 euro al mese, paga 600 euro d'affitto, e quindi l'aiuto, però da qui a dire che io sono obbligato, credo proprio di no, visto che ha già quasi 40 anni e i due figli non li ho fatti io, se li ha fatti lei. Abbiamo aggiunto alla nostra casistica un caso ulteriore, un nonno in fondo. Avvocato Padalino, situazioni come questa le sono mai capitate nel suo studio? Sì, capitano purtroppo anche spesso. Purtroppo l'ascoltatore, a mio avviso, è obbligato due volte, cioè obbligato nei confronti della figlia a garantire gli alimenti, perché se c'è uno stato di bisogno e la figlia non può lavorare, ma per ragioni oggettive, no? Non riesce a trovare un'occupazione, sono dovuti gli alimenti. Ma anche, come dicevate voi, l'obbligo da nonno, cioè nei confronti dei nipoti c'è un'obbligazione sussidiaria, essendo entrambi genitori disoccupati, il nonno dovrebbe, come dire, garantire ai nipoti il mantenimento. Quindi è proprio così secca la situazione. Io pensavo che ci fossero, cioè che la ragazza ci marciasse, invece è proprio così. Andiamo a una ragazza, Marisa, che ci chiama da Bari. Marisa, salve. Buongiorno Marisa. Salve. Senta, io volevo praticamente spiegare il fatto che io, essendo una ragazza di 19 anni, quindi frequento il primo anno dell'università, io non penso che sia una cosa totalmente sbagliata per i genitori dover sostenere i propri figli, essendo io comunque le mie spese essendo a carico della mia famiglia. Certo. Io non capisco questo astio che si ha, perché adesso va di gran moda dire che i cosiddetti bomboccioni, quelli che adesso rimangono a casa fino 25-30 anni. Certo, io non sono neanche d'accordo con diciamo sfruttare i genitori per frequentare magari 2-3 volte lo stesso anno di università. Certo. Però comunque non trovo niente di male. Da dove hai percepito, appunto, Marisa, da dove hai percepito questo astio di cui parli? Nel modo in cui abbiamo trattato l'argomento, percepisci che l'abbia... No, assolutamente non sto parlando della trasmissione, ma in generale delle informazioni che divulgano i media, giornali, televisione, perché, comunque se ne parla perché molto Marisa male. Dice, ci hanno etichettato questa la targhetta da bamboccione, esatto, in realtà. Marisa, tu come quindi se l'università farai... è un momento di temporeggiamento, ecco, ok. Ecco, l'università bisogna, se uno la fa, la fa bene, come diceva Marisa. Marisa, nei tempi utili, primo anno di università, è scritta che cosa, Marisa? Lingue, letterature straniere. Brava. Brava e soprattutto brava per aver chiamato, perché ha in qualche modo, dottor Aquilar, sostenuto, rappresentato la voce dei giovani, che si fanno giustamente aiutare dai genitori, che investono nel loro futuro e lo fanno impegnandosi seriamente. Dottor Aquilar, ci è piaciuta Marisa? Marisa sostiene un'ottima posizione e a volte però le cose sono un po' più complicate. Quello che bisognerebbe anche fare è aiutare i giovani nel imparare come si fa a cercare lavoro. Per esempio esistono delle istituzioni che organizzano dei corsi per cercare lavoro psicologicamente orientati, laddove noi dobbiamo insegnare anche a questi ragazzi a come utilizzare le loro opportunità e spiegare loro che ci sono delle opportunità anche per quelli per i quali sembra che non ce ne siano. In qualche modo è sempre una negoziazione tra le risorse di cui possono usufruire i giovani e anche gli adulti che possono insegnare loro dei modi migliori di utilizzare le loro risorse, e poi per alcuni momenti serve un aiuto concreto, perché anche se un giovane ce la mette tutta può essere in difficoltà per la causa della crisi economica generale o della situazione particolare in cui viviamo, oltre che per il mondo particolarmente competitivo e non cooperativo nel quale ci troviamo a vivere. E allora continuate a interagire con noi se volete su questo tema molto bello, molto ampio, molto delicato, all'800 24 00 24. Forse abbiamo adesso un impegno con il traffico, ma torniamo con i tantissimi ascoltatori pronti ad intervenire tra qualche istante. Cuore e denari. Con grande frustrazione oggi la puntata ci sta scivolando di mano, perché abbiamo tanti ascoltatori, vorremmo raccontare e spiegare tante cose. Allora da qua la promessa formale che torneremo molto presto su questi argomenti e magari anche organizziamo un appuntamento fisso per le nostre famiglie un po' così in difficoltà. Mi sembra un'ottima idea. Intanto ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che ci trasferiremo nella seconda parte della trasmissione alla scuola del risparmio. Certo. E il risparmio tocca anche le relazioni, esatto, tra genitori e figli, come ci ha spiegato il dottor Aquilar. Andiamo a Parma. Che dite? Andiamo Stefano, a... buongiorno. Buongiorno. Volevo anch'io, ovviamente sono nella situazione che state trattando stamattina. Io sono divorziato, ho 2 figli dal primo matrimonio e 3 dal secondo. La prima molto brava, università, ultimo anno, tutto a posto. Il secondo invece, il maschio, assolutamente no. Poca voglia di fare tutto. Allora, il mio dubbio qual era? Più che altro sotto l'aspetto educativo, che in un certo senso una sentenza di mantenimento limita o addirittura toglie, perché io passo circa 1.300 euro per entrambi al mese. 1.300 complessivi. 1.250, insomma. Sì, diciamo 1.300, vabbè, siamo lì. Se io fossi rimasto a casa, quindi in una famiglia normale, io vi garantisco che 20 euro tutte le mattine sul comodino di mio figlio, che non ha voglia di trovarsi un lavoro, che ha finito le scuole con 150.000 spinte, io non glieli faccio trovare. Quindi Stefano, lei ha risposto alla domanda che aveva fatto in apertura proprio all'avvocato Padalino, ecco, che è stata una domanda clou. Ma bravissimo avvocato, vede che è ritornata alla sua domanda. Li avreste mantenuti se la separazione non avesse diviso la vostra famiglia? E Stefano dice no. Esatto, cioè, in realtà lo avrebbe mantenuto indirettamente, mettendo tutto il suo stipendio a disposizione del nucleo familiare, però ecco, non ci sarebbe stato un trasferimento diretto di denaro. Forse è il gesto che qualche volta differenzia, avvocato. Ma sì, io identifica, etichetta, ecco. Vorrei precisare un aspetto che poi ho letto anche nel caso di Rachel, quando il giudice dice questa è una materia da consulenti familiari, esatto, non da giudici. In realtà, quando si arriva in tribunale, l'aspetto educativo, anche per i minorenni, non conta. Cioè, è una questione solamente di capire come far mantenere quel tenore di vita, anche se al genitore che si allontana è diseducativo. Ma lei, come avvocato del suo settore, ritiene che invece l'aspetto educativo chiaramente è difficile da quantificare, ma andrebbe tenuto in considerazione? Cioè, se lei, secondo lei, se il giudice conoscesse in maniera approfondita le dinamiche di questa famiglia e si accorgesse che una ragazza nello stesso nucleo familiare ha un tipo di educazione, formazione, va avanti, spedita all'università e un altro non fa nulla, secondo lei disciplinerebbe in maniera diversa l'assegno? Certamente, certamente. Ah. Ma disciplinerebbe diversamente l'assegno, ma sempre con riferimento al criterio giuridico, cioè che l'inerzia, la colpevole inerzia, non ha consentito a quel figlio di raggiungere gli studi che voleva o comunque di rendersi indipendente, perché è anche vero che se non vuole studiare deve trovarsi un lavoro. Cioè le aspirazioni dei figli non possono essere all'infinito quelle di diventare uno scrittore piuttosto che un primario, no? Bisogna tener conto di quelle che sono le concrete condizioni economiche dei genitori e fin quando queste aspirazioni si possono coltivare. Un suggerimento concreto a questo papà? Quale può essere? Ma sicuramente di mettere in discussione la quantificazione sulla base degli altri figli che sono nati e poi mettere in condizione il giudice di capire perché secondo lui questo figlio non fa nulla. Documenti alla mano, ad esempio producendo il libretto universitario che potrebbe attestare una carenza negli studi. Dottor Aquilar, perché questo ragazzo non fa nulla? Ecco, davanti al tribunale forse questa spiegazione diventa difficile, ma da psicologo sicuramente una lettura lei è in grado di darla. Due figli, due mondi completamente diversi, pur, come si dice, provenendo dalla stessa famiglia. Qualche cosa è mancato? Qualche cosa è saltato? Non lo sappiamo, dovremmo studiare la questione per entrare nello specifico, perché non si può fare una generalizzazione troppo facile. Il punto è che naturalmente se noi avessimo la possibilità di entrare dentro le dinamiche familiari e di intervenire per cercare di migliorare la comunicazione e le abilità di ciascuno, questa situazione potrebbe essere risolta più facilmente, perché sono due aspetti. Da un lato c'è la situazione economica, come dire, bruta. Dall'altro c'è il significato che il cercare lavoro o il sentirsi diverso da una sorella particolarmente brillante può assumere nella mente di ciascuno. Quindi qua insomma si riaprirebbero magari, non lo so, discorsi chiusi nell'ambito delle dinamiche familiari, perché anche fare questo confronto poi con l'altra. Beh, però bisogna farlo. Silvia da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha fratelli o sorelle? Sì, ho due fratelli maggiori, sono l'ultima di una famiglia, sì, diciamo quasi numerosa. E, la mia situazione è un po' ribaltata rispetto a quello che sto ascoltando, nel senso che io ho 39 anni, mi sono laureata, ho acquistato casa, abito da sola, però purtroppo la situazione congiunturale attualmente mi pone in una condizione in cui io lavoro a tempo determinato a seguito di una mobilità, ho sempre cercato qualsiasi lavoro, anche se non fosse proprio niente ai miei studi. Pur di non chiedere un euro in casa. Però la situazione mi porta oggi ad avere un tempo appunto determinato, part time, guadagno 650 euro al mese e ho 350 euro di mutuo tutti i mesi da pagare. E quindi certo, l'aiuto dei genitori diventa necessario. Diventa necessario, anche se dentro di me c'è una forma di sofferenza non essere a 39 anni indipendente e non poter avere delle prospettive neanche di programmazione della propria vita. Questo aiuto, Silvia, è dato comunque volentieri da sua mamma e da suo papà? Assolutamente sì, certo. Perché io comunque in una famiglia tradizionale, di una famiglia di genitori che hanno sempre lavorato, hanno sempre fatto di tutto per i figli, quindi sono fortunata, mi ritengo fortunata, però dall'altra parte ribalto un po' la situazione, nel senso sono figlia che vorrebbe essere indipendente, che purtroppo però per necessità dipende anche proprio nella gestione quotidiana, cioè l'acquistare anche solo il figlio. Certo. No, no, assolutamente, Silvia, in bocca al lupo per stata fortunata, dice, di avere dei genitori, ma penso che anche i suoi genitori siano fortunati ad avere una figlia come lei, che sono sicura supererà questo momento di crisi che stanno attraversando in tante persone. Ci sono, no? Vediamo un po' di luce in fondo al tunnel. Forza Silvia, ce la facciamo. Sempre forza, perché certo, si va avanti a testa. Magari fra qualche mese nella stessa trasmissione ci racconterà, speriamo, qualcosa di diverso per lei. Fiore da Perugia, come, non può come che essere si può? Come si può non sentire Fiore al femminile, ma al maschile? Sì. Eccoci. No, perché anche No, è che il nome è più lungo e quindi l'ho abbreviato per semplicità. E che sarà? Fiorella? Fiorbellina. No, belli. Andiamo, purtroppo un minuto veloce di tempo, grazie. Intervenire, scusatemi se vi ho disturbato, sia come piccolo imprenditore agricolo che come mamma. Anzi, prima come mamma che come imprenditore agricolo. E devo dire che è molto interessante, ma anch'io con mia figlia, che adesso ha solo 13 anni, la sto spingendo a studiare finché può e più che può. Finché io, anche con le nostre crisi, posso, io me la mantengo agli studi, se studia. Brava. Ovvio che nel momento che mi vedo che fa la scansa fatiche, quello allora vieni a zappare a terra con me. Brava. Quindi almeno la mantengo, ci dovrà stare, tanto tutto sarà suo perché è figlia unica. Però intanto grazie Fiore per questa perla di saggezza materna. Intanto noi salutiamo il dottor Aquila ringraziandolo per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche all'avvocato Carmelo Padadino, che invece, come sempre capita quando facciamo trasmissioni di questo tipo, so che nelle prossime ore si metterà volentieri a nostra disposizione per magari riuscire a dare qualche indirizzo ai casi più complicati che ci stanno arrivando anche attraverso la mail cuoredenari@radio24.it. Adesso il nostro GR, poi di nuovo insieme con la scuola di risparmio. Mi raccomando, preparatevi. Cuore e denari. La verità, vi prego, sul denaro. Andiamo a parlare di soldi a teatro. Nicoletta, andiamo? Ma lo sai che io sono sempre pronta per andare a teatro. Come si dice, mi do una pettinata, un filo di rossetto e voilà. E voilà. Da domani, 13 marzo, inizia a Milano un ciclo di incontri organizzati e promossi da una società di gestione del risparmio che si chiama A come A, con lo scopo di alfabetizzare e iniziare ai temi della finanza e dell'economia tutti coloro che sono proprio refrattari a questi argomenti, e sarà facile apprendere questi concetti perché andando a teatro si parlerà il linguaggio del teatro, quello che possiamo proprio considerare un po' un luogo sacro, per cui lo chiamano in gergo storytelling, ma in alcuni casi si utilizzerà anche la modalità dell'intrattenimento. E ci saranno Alessandro Haber, Gioele Dix, l'economista Marco Onado, il sociologo Vincenzo Ruggero, ma soprattutto lui. Per ogni matematico c'è un senso d'infinito. Quando mettiamo gli spaghetti dentro la pentola, creiamo un iperboloide. Chiuso dentro la doccia solare, mi sono accorto che la pianta della doccia solare era ellittica. Ho provato, anzi, a mettermi in uno dei due fuochi di questa ellisse, pensando di poter mettere a frutto in questo modo meglio i soldi che avrei speso per la lampada. Ipotizzando un guardaroba medio, è venuto fuori che uno potrebbe andare vestito per diverse centinaia d'anni, sempre diverso tutti i giorni. E allora, buongiorno a Giovanni Filocamo, che sarà protagonista dell'ultima serata il 9 giugno di questo percorso fisico-matematico, ma non lo possiamo proprio solo racchiudere in questa definizione. Intanto, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Si aspettava questa bella presentazione? Buongiorno. Ma che sigla meravigliosa, eh? non l'avrei mai aspettato. No, ma complimenti a lei per il suo sito, perché veramente, oltre che essere ricco di informazioni, è molto ben fatto, molto molto divertente, molto curioso. Ci ha fatto schiettare un po' di invidia, diciamogliela tutta, perché lo vogliamo copiare, dici? No, oltre a tutte le cose che fa, capisce tutte di matematica, di fisica, tra le varie cose che faccio, faccio anche siti internet, infatti l'ho fatto io quello. Bravo. E poi sai, è anche tangheiro, oppure usa il tango solo per abbinarlo alla fisica? No, questo è la mia... Allora, qua però col collegamento telefonico non ci siamo, eh? Adesso noi perdiamo un po' di tempo e Laura Vanossi con Marco Lombardo in 30 microsecondi. Perché lui non è capace a fare una magia e no, tac. Tac, no, esatto. Allora, intanto io racconto un po' quello che ha fatto. A parte essere giovanissimo, si è laureato in fisica con una tesi sulla teoria del caos. Dal 2004 è coinvolto attivamente nella progettazione e nell'organizzazione di eventi culturali, ma soprattutto... ha predisposto, ha organizzato, ha avviato Mate Fitness, che è la palestra della matematica, iniziativa di divulgazione e diffusione della matematica promossa dal CNR, dal Festival della Scienza di Genova. Sai che l'hanno portata anche in spiaggia? Davvero? Sì. E tu c'eri? La matematica in spiaggia, certo. Adesso per questo fare... sono così preparata. Guarda che ti faccio fare un'equazione in 2 secondi, anzi una bella operazione di altro tipo. L'abbiamo ripristinato, Filocamo? Sì. C'è? Ci sono, Giovanni. Eccoci qua. Allora, lei dice: spiego la scienza in modo diverso, un po' come bisogna fare con la finanza, perché come lei sa bene l'Italia è tra i paesi più ricchi quello dove l'educazione finanziaria scricchiola un po'. Sì, non solo quella purtroppo. Anche lei dice siamo anche abbastanza asini per quanto riguarda la matematica e la fisica, ma noi oggi ci occupiamo di scuola di risparmio, lo faremo naturalmente con i nostri esperti. 800 24 00 24, se volete intervenire stuzzicali un po'. Sì, Deborah. Esatto, parleremo, lo anticipo così almeno si attrezzano già per le domande, di fondi, pensione e previdenza complementare. Avremo a disposizione la dottoressa Sonia Maffei di Assogestioni, grande esperta di previdenza integrativa. Andiamo alla scienza spiegata in modo diverso, Filocamo. Come si può abbinare il lavoro che lei fa anche ad un lavoro di educazione finanziaria? Sì, dunque, ma intanto spiegate in modo diverso, e qui stiamo parlando appunto di informare. No, mi sa che oggi non ce la facciamo. Dove sta con questo telefono, Filocamo? Ce la facciamo a fare? Mi sentite? Ecco, fermo lì, vada. Fermo lì. Allora, dicevo che parliamo di matematica informale, ovvero di insegnare la matematica attraverso dei laboratori interattivi. Cosa vuol dire laboratorio interattivo? Vuol dire non soltanto avere carta e penna, ma anche tanti oggetti, anche giochi progettati direttamente da noi, oltre ad attività in generale, per andare a vedere per esempio anche la matematica che ci sta sotto il naso. E a proposito di economia, alcune cose che facciamo sono quelle, tanto per dire, per fare un esempio, i trucchetti, come dire, per fare del calcolo, e in particolare il calcolo della spesa. Tu metti la roba nel carrello, arrivi di solito alla cassa e spendi il doppio di quanto si immagini. Bravo, è vero, a me capita sempre così. A me succede un sacco di volte questa cosa. Allora, come si può fare? Però... praticamente grazie alla matematica, io lo dico, però dico anche che a me succede purtroppo di spendere... è una autopubblicità cattiva che mi faccio, ma non ce la si può fare. Filocamo, non la sentiamo proprio. Bello, quando doveva insegnarmi a capire quanto sarei. Allora, facciamo una cosa: carrello. Secondo te, che io non lo vedo, hanno già messo in collegamento la dottoressa Maffei. Allora, intanto, Filocamo, lo teniamo là. Se riusciamo, facciamo una conclusione con lui. Adesso direi di partire e andare alla nostra scuola di risparmio. A scuola di risparmio. Ave avrei voluto chiedere a Giovanni Filocamo un aggancio per parlare di fondi pensione, per dispetto gli chiedo poi una conclusione su questo argomento. Allora, noi ci stiamo avvicinando sempre di più al salone, no Nicoletta? Dove saremo? Assolutamente, saremo vicino a casa mia e quindi dal 26 tutti lì a fare l'aperitivo e poi andiamo al salone. Dal 26 al 28 marzo Milano ospita in Bocconi il Salone del Risparmio, la sua quinta edizione dedicata all'investimento di lungo termine. I concetti pensione e lungo termine vanno assolutamente a braccetto. Proprio per questo motivo stamattina abbiamo deciso di dedicare la scuola di risparmio alla previdenza complementare. Ci facciamo aiutare da Sonia Maffei, responsabile previdenza di Assogestioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Le chiedo subito una prima fotografia di questo mondo. Che cos'è la previdenza complementare, la pensione integrativa? Negli ultimi anni ci siamo abituati a chiamarla la pensione di scorta, dottoressa Maffei. Diciamo che questo nome, la pensione di scorta, un po' deriva dal fatto che la previdenza complementare nasce proprio con la finalità di consentire l'erogazione di trattamenti pensionistici più elevati rispetto a quello che ci darà al termine dell'attività lavorativa il sistema pensionistico di base. Per questo di scorta, perché di fatto è un qualcosa aggiuntivo, è un qualcosa che ci serve per far sì che il nostro tenore di vita quando andremo in pensione sia il più possibile vicino a quello che noi avevamo nella fase attiva della nostra. Certo, dottoressa Maffei, mi scusi, siamo sfortunati coi telefoni stamattina, sta un viva voce lei per caso? No, tutto a posto. Ecco, grazie. Quindi non l'abbiamo beccata in flagrante. Allora, non mi avete beccata vede, in flagrante. Ero lontana dalla cornetta. Brava. Allora, dottoressa Maffei, secondo i dati di una ricerca Eurisk, di fronte a questa la possibilità di non avere una pensione sufficiente a mantenere il proprio tenore di vita, il 28% degli italiani semplicemente dice... No, non affronto il problema. Il 26% dice che ci penserà, ma in futuro. Il 2% sostiene di essersi posto il problema, ma senza aver ancora trovato una soluzione. Come commentiamo questi dati? Allora, diciamo che la prima cosa che mi verrebbe da dire è che è necessaria, perché è necessario intervenire al più presto sull'educazione finanziaria, e nell'educazione finanziaria facciamo rientrare anche l'educazione previdenziale, perché è molto importante che i giovani, soprattutto i giovani, abbiano contezza di quella che è la situazione attuale, di quella che sarà la situazione futura e che pongano dei provvedimenti. Ora, non vorrei spendere le parole sui soliti dati che noi commentiamo ogni anno, però il tasso di adesione alla previdenza complementare è aumentato, ma è aumentato molto poco, sì. Solo un 5,3%. Siamo sempre un po' al di sotto del 25% della platea, esatto, dei lavoratori, vero? Solo il 25%. Abbiamo un'età media che è molto alta di adesione sui 47-50 anni. Questo che cosa vuol dire? Che soprattutto le fasce di età che dovrebbero entrare non entrano. Ora, non è che la previdenza complementare bisogna destinare grossi capitali, però basta anche un pezzettino, fare la formichina che poi piano piano magari... Ecco, mi dica quanto ad esempio. Allora, e a partire da che età? Allora, non ci sono limiti di età, no. Io lo posso dire, io ho una bambina piccola, è iscritta da quando è nata. Non voglio far pubblicità a questa cosa, però è un esempio che serve per dire la previdenza complementare è necessaria da quando si nasce. La prima possibile, in sostanza. La prima possibile. Io l'ho iscritta da quando è nata. Perché? Perché comunque arriverà magari all'età anche in cui finirà gli studi, che potrà avere anche delle somme che possono essere a disposizione, perché sappiamo che c'è l'istituto delle anticipazioni. Sono accantonamenti che si fanno a fine previdenziale, però se uno ne ha bisogno per delle esigenze che dovessero manifestarsi durante la fase di accumulo, c'è l'istituto delle anticipazioni, dove addirittura un 30% è libero. Ora, per ritornare, quant'è l'optimum? L'optimum sarebbe ai limiti della deducibilità fiscale. Quanto siamo? Sui 5.164 euro, annuale, che è quello che noi possiamo portare in deduzione. È anche vero che se noi versiamo somme aggiuntive, quelle poi non saranno ricondotte a tassazione quando prenderemo la prestazione finale. Però diciamo l'optimum è quello. Però anche se non si arriva a quella cifra, iniziare con già dei piccoli versamenti per poi incrementarli man mano che si va avanti con l'età lavorativa, magari anche con i salari, con gli stipendi che si hanno a disposizione, già quello è importante. Allora, Allora, ricordo 8... che l'iscrizione è anche per le persone fiscalmente a carico. Ah, ecco, magari poi se ce la facciamo approfondiamo questo aspetto. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Abbiamo ancora 7-8 minuti di tempo per potervi sentire. E il tema è, dottoressa Maffele, lo sa bene che in realtà in questo frangente molto critico per quello che riguarda l'economia, molti contestano anche queste sue affermazioni, tra virgolette, ma come magari possono farlo se capita loro di parlare di questo argomento con amici o anche con altri consulenti. In questo momento non c'è trippa per gatti, non ce la faccio ad arrivare alla fine del mese, figuriamoci se ce la faccio ad attivare un piano pensionistico. Non solo, lo scorso anno la COVI, per l'organismo di controllo dei fondi pensione, ha reso noto che 1.200.000 persone hanno sospeso versamenti che stavano già facendo. Come rispondiamo a tutto questo? Allora, io questo non lo ricondurrei, questa sospensione, all'Istituto della Previdenza Complementare quanto alla situazione generale che c'è in questo momento. Perché? Perché lei dice che sospendono per quale motivo? Ci sono delle difficoltà, perché se è possibile che ci siano delle persone che siano in difficoltà economica, quindi la prima cosa che si fa, si sospende la contribuzione. Sospendere la contribuzione però non significa sospendere la permanenza nel piano, perché sospendere la contribuzione, quando uno magari potrebbe avere delle esigenze che sono motivate di sospensione della contribuzione, perché non è che possiamo fare una fotografia di quella che è la situazione, almeno noi non ce l'abbiamo, di quella che è la situazione economica in cui versano le famiglie in questo momento, tutte le famiglie. Ci rendiamo conto che la situazione non è semplice, ma non lo è per nessuno, e in questo momento se le condizioni economiche sono tali da dover dire stop alle contribuzioni, si sospendono. L'importante è non riscattare, perché non riscattando, certo. Perché non riscattando comunque si mantengono tutti i benefici di permanenza nel piano. Poi la contribuzione può essere riattivata in qualsiasi momento. Andiamo, sì, no, le accumulate continuano ad essere valorizzate. Esatto, però in realtà, come lei giustamente ha osservato, se si è in difficoltà, se si perde il posto di lavoro, ma anche il contributo del datore di lavoro, in realtà la prima cosa che si fa è si sospende. No? Però Deborah, sì? Per quanto riguarda gli strumenti, allora abbiamo capito che sarebbe bene farla, no? Però andrei agli strumenti di cui dispongono gli italiani per costruirsi questa pensione integrativa, come l'hai ribattezzata tu, la pensione di scorta. Certo. Va bene, anche lì la cosa non è semplice, perché io sento quando tu parli di fondi chiusi, fondi aperti, piani individuali, come si fa a scegliere? Io sono la vostra allieva, esatto, proprio della scuola del risparmio. Certo che in 4 minuti è difficile dare indicazioni, ma ci possiamo provare. Dottoressa Maffei. Allora, i fondi negoziali sono quelli che sono previsti all'interno, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Quindi la prima cosa da fare è, quando si viene assunti in azienda o si lavora in un'azienda, è chiedere al proprio datore di lavoro se per quell'azienda è previsto un fondo pensione di categoria, quindi dove il datore di lavoro versa le contribuzioni. E questi sono i fondi chiusi, esatto, no? Magari facciamo due esempi: il Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per i chimici, Espero per gli insegnanti, tanto per dire. Esatto, ma ciascuno di noi quando viene assunto in un'azienda può chiedere al datore di lavoro qual è la forma di previdenza complementare prevista per quell'azienda. Perfetto. Ora, questi sono quelli che abbiamo citato prima, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva, poi ci sono un'altra miriade di forme di previdenza complementare, che sono i fondi pensione aperti, istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, e poi abbiamo i piani di previdenza individuali, quindi il lavoratore comunque, indipendentemente dall'azienda di appartenenza, questo se il datore di lavoro è d'accordo, può scegliere all'interno dell'area, diciamo del mondo della previdenza complementare, quale fondo aderire. Se non si è contenti della scelta originariamente fatta, ci si può trasferire, anche lì, se naturalmente c'è un contributo del datore di lavoro, bisogna vedere se le condizioni contrattuali comunque prevedono la prosecuzione della contribuzione presso la nuova forma di previdenza che il lavoratore ha scelto. Però attenzione, quindi, anche a fare 1000 trasferimenti, cioè cerchiamo di razionalizzare anche il nostro cammino, non fare 12.000 cambi, no, perché altrimenti spezzettiamo la nostra situazione e poi è difficile rimetterla in piedi. No, perché comunque quando noi ci trasferiamo, ci portiamo dietro tutto il bagaglio. Se io mi trasferisco, io sono un aderente ad un fondo pensione, in questo momento io sono aderente ad un fondo pensione aperto, io sono aderente ad un fondo pensione, se voglio trasferirmi perché non sono più contenta della gestione di quel fondo, oppure ho altri motivi, perché magari inizio a lavorare in un'azienda metalmeccanica, quindi preferisco andarmene nel Cometa, dove avrei tutte le possibilità di accesso, io mi porto dietro tutto il bagaglio, tutto quello che ho accumulato me lo porto dietro. Ecco, senta, un'ultima domanda, poi la lasciamo. Anzi, che la faccio fare da Claudio da Varese, così peschiamo un ascoltatore su questo argomento e ci sembra molto interessante molto, che possano. Certo. Claudio, buongiorno. Vada. Buongiorno, sono un operatore del settore, sì. Vi sono grato per l'informazione che fate, ma dovreste per un'informazione completa dare un'idea di cosa significa in termini di quote, qual è il montante che occorre avere per avere una rendita di 1000 euro al mese e quanti anni devo campare per far sì che il mio risparmio alla fine sia pari alla rendita che mi viene data. Certo. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, Claudio. Beh, non possiamo certo non notare la pertinenza delle osservazioni di Claudio, dottoressa Maffei. Allora, questo qui dipende. Allora, per dare una risposta all'ascoltatore che ci stava ascoltando, scusate il gioco di parole, sì, insomma, all'operatore del settore che ci stava ascoltando, questa dipende da varie variabili, perché dipende dall'età, dipende naturalmente da quanto si versa e dipende da una serie di fattori. Certo, non ultima anche l'incertezza della legge che continua a procrastinare in avanti l'età pensionabile. Sì, il tasso d'inflazione, ci sono tutta una serie di fattori da considerare. Però io posso dire questo: le riforme pensionistiche complementari mettono a disposizione sui propri siti internet, provi a vedere, naturalmente per quelli rappresentati da noi, fondi pensione aperti, ciascuno fondo pensione aperto ha sul proprio sito internet un calcolatore, esatto, per cui registrandosi sul sito, inserendo propri dati, l'età anagrafica, quando sono nato, un'ipotesi di contribuzione, è possibile sapere quant'è la rendita stimata. Benissimo, Maffei, grazie. Filocamo, ci ha fatto soffrire, adesso la ripeschiamo gli ultimi 20 secondi? Ci sono. Purtroppo però noi abbiamo terminato la trasmissione. Che ne pensa della pensione lei? Ma penso che, guardi, con tante persone con cui ne chiacchiero, i miei amici che hanno più o meno la stessa età, eccetera, siamo convinti che in pensione non ci andremo mai. No, adesso quindi, questa conclusione. Sì. E quindi dovete prendere in considerazione molto presto il tema della previdenza complementare. Non ce la facciamo ad andare oltre, ma magari lo ripeschiamo prossimamente. Assolutamente. Per chi vuole vederlo, Teatro Parenti a Milano, naturalmente. Il 9 giugno. Sì. Grazie, a domani.